Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. A volte il mondo del pop commerciale, sgargiante e luccicante, può trarre in inganno. Può sembrare un mondo facile, dove l'apparenza conta sempre più della sostanza. Non è sempre così. Spesso le pop star venerate da milioni di fan sono artisti che si sono costruiti la propria immagine e la propria carriera lavorando duramente e costruendosi quasi da zero. È il caso della diva di cui parliamo oggi, la più celebre e pagata artista latinoamericana dello show business, l'affascinante Jennifer Lopez. La rivista Forbes l'ha incoronata qualche anno fa la donna più bella del mondo. Jennifer è anche una delle donne più chiacchierate del pianeta. Facciamo un esempio. Come si sa, sono diverse le star che assicurano le parti del proprio corpo grazie alle quali sono diventate note al grande pubblico. Ad esempio, Dolly Parton ha assicurato il suo seno voluttuoso per 3,8 milioni di dollari. Mariah Carey avrebbe gambe da 1 miliardo di dollari, mentre Tom Jones, si dice, avrebbe assicurato niente meno che i suoi peli del petto per 7 milioni di dollari. Jennifer Lopez ha pensato di fare lo stesso con uno dei suoi aspetti più apprezzati dal suo pubblico maschile, il fondo schiena, il cui valore raggiungerebbe una cifra che si aggira attorno al 1 milione di dollari. Dal 1999 questo gossip circa il suo lato B assicurato è diventato una leggenda metropolitana a tutti gli effetti. Questa vicenda, tra il serio e il faceto, ci illumina su un indubbio talento di Jennifer, cantante, attrice e modella di successo, il fiuto per gli affari. Questa straordinaria capacità di gestire la propria immagine e il proprio business, anche attraverso gossip costruiti ad arte, l'ha portata dal Bronx al vertice della hit parade. Jennifer Lopez nasce il 24 luglio 1969 a New York, nel Bronx. La sua famiglia ha origini portoricane. I genitori Guadalupe e David Lopez si sono trasferiti nella Grande Mela da Porto Rico in cerca di fortuna. Sono gli anni caldi dell'immigrazione portoricana verso gli States, un ventennio dopo la dichiarazione di semi-indipendenza dell'isola e 10 anni dopo la storica visita di John Fitzgerald Kennedy. Migliaia di immigrati portoricani riempiono i quartieri poveri delle città americane e cercano lavoro tentando di inserirsi nella società. Non è un progresso facile e non lo è nemmeno per Jennifer e la sua famiglia. In quegli anni certo non navigavamo nell'oro, però i miei genitori erano dei grandi lavoratori, per cui riuscirono a non farmi mancare niente. E anzi mi diedero un esempio e degli insegnamenti molto importanti. Il padre di Jennifer è un tecnico di computer e sua madre è un'insegnante. La Lopez impara sin da piccola i valori del lavoro duro. Il Bronx è anche una lezione di vita. La varietà etnica e culturale del quartiere a nord di Manhattan dà a Jennifer l'apertura mentale necessaria per vivere il mondo con la giusta pienezza. Il Bronx era tutto quello che conoscevo. Non avevo idea che fosse un posto difficile. Per me era semplicemente il posto dove ero nata e cresciuta. Conoscevo tutti i miei vicini. C'erano un sacco di ragazzi della mia età in giro. A me sembrava un posto normale. A 5 anni inizia a prendere lezioni di canto e ballo. Si esibisce a casa con le sue 2 sorelle. Spesso Jennifer interpreta Anita nella loro particolarissima versione di West Side Story. La mia famiglia ha sempre amato molto la musica. In casa mia si ballava e cantava continuamente. Quindi per me è sempre stata la cosa più normale del mondo cantare una canzone o ballare davanti ai miei parenti. Questi, insomma, sono i primissimi passi di Jennifer Lopez nel mondo e nella musica. Nel 1986 Jennifer Lopez ottiene una piccola parte nel film My Little Girl. L'anno successivo inizia a frequentare il Baruch College, ma la sua vera passione è il ballo. E quando scopre di poter ottenere una borsa di studio per una scuola di danza a Manhattan, Jennifer non si fa sfuggire l'occasione. La madre, però, sembra non essere d'accordo con le scelte di Jennifer, che, messa di fronte al popolarissimo ricatto «Tu segui le mie regole finché vivi sotto il mio tetto», decide di vivere direttamente sotto il tetto della scuola di ballo. Quando me ne sono andata di casa e mi sono allontanata dalla mia famiglia, sono stati tempi duri. Ero da sola ed ero giovane. Avevo 18 anni. Dovevo cavarmela da sola. Avevo un lavoretto part-time in uno studio legale e al pomeriggio prendevo lezioni di canto e ballo ed era un vero casino. Vivevo con 3 o 4 coinquiline. Dormivamo a turno sul pavimento. Mangiavamo pizza ad ogni pasto perché costava poco. È così che vivevo. Dopo un anno e mezzo di audizioni che non portano a nulla, prima viene scritturata per un tour in Giappone e al suo ritorno batte altre 2000 provinanti per un posto fra le ballerine Fly Girl della serie televisiva della Fox In Living Color. Dallo stesso spettacolo sono uscite stelle come Jamie Foxx e Jim Carrey. Nel 1990 Jennifer si trasferisce dalla sua casa di New York alle colline coperte di stelle di Hollywood. Metto così tanto cuore e anima nei miei progetti. Per me sono come piccoli bambini. Capite cosa intendo, no? Vuoi che abbiano successo? E se non lo hanno, li amerai lo stesso. Il primo passo verso il successo, quindi, Jennifer lo compie trasferendosi fisicamente a Hollywood, vicino allo show business. La prima tappa della sua carriera la vede protagonista come ballerina e attrice nella sitcom In Living Color, nella quale lei interpreta la parte della ragazza a volante, ovvero di una ballerina in erba così soprannominata a causa dei suoi mirabolanti volteggi. Questa particina, in parte autobiografica, fa conoscere la personalità di Jennifer Lopez in tutti gli States e la porta verso il suo primo incontro decisivo, quello con Janet Jackson. Janet Jackson, la più piccola della talentuosa dinastia Jackson, è una figura mitica del black pop commerciale. Anche lei, cantante e ballerina di successo, icona di seduzione e indipendenza artistica, modello per decine e decine di aspiranti vocalist. Tra queste, Jennifer. Per me Janet è un vero e proprio mito. Ricordo che quando ero agli inizi come ballerina studiavo ogni suo singolo passo, imparavo le sue canzoni. Era un mito! Anche perché rappresentava la figura di un'artista afroamericana che ce l'aveva fatta, lavorando duramente e impegnandosi nella musica sin da quando era bambina. Janet Jackson, classe 1966, ha solo 3 anni più di Jennifer, ma una carriera già avviata all'inizio degli anni 90. Il suo primo album di successo, Control, scritto assieme a Jimmy Jam e Terry Lewis, pubblicato nel 1987, ha ricevuto critiche molto favorevoli in tutto il mondo, una nomination ai Grammy come miglior album dell'anno e ha guadagnato l'87esimo posto nella Rock and Roll Hall of Fame, la classifica degli album più importanti di ogni tempo. Control ha dato inoltre un impulso decisivo alla diffusione del cosiddetto Contemporary Rhythm and Blues. Anche gli album successivi di Janet scuotono il mondo della musica. Nation 1814 ha ancora maggior successo del precedente e consacra Janet come artista di livello internazionale. Il tour a supporto, cominciato nel 1990, il primo per Janet, sarà il tour di debutto di maggior successo nella storia della musica. Dall'album vengono estratti 7 singoli, che finiscono tutti e 7 fra le prime 5 posizioni negli States. Arrivata al 5º album di inediti, che si intitola Janet, il destino mette le due ragazze sulla stessa strada. Il secondo singolo che Janet decide di estrarre dall'album è That's the Way Love Goes. Il passaggio delicato del lancio del singolo è, come sempre nella MTV era, la preparazione del video, che prevede un impianto dance di grande impatto visivo. Così, in quei giorni del 1992, il telefono di Jennifer Lopez squilla. L'agente di Janet Jackson la convoca per un provino. Janet stessa l'ha vista nel programma Fox e ha scelto lei come backup dancer. Che cos'è un backup dancer? È un ballerino o una ballerina che balla insieme all'artista protagonista o subito dietro, integrando i suoi movimenti con i propri, generando molto spesso un effetto di simmetria molto importante. Un ruolo delicato, quindi, per il quale Janet Jackson sceglie proprio lei, Jennifer Lopez. Beh, è stata un'opportunità incredibile e inaspettata. E un'esperienza da cui ho imparato molto. Sono stata su un set con dei veri professionisti e anche con lei, Janet. Ho potuto vedere da vicino quanto scrupolosamente curasse ogni dettaglio, anche quelli minimi e apparentemente insignificanti. Il video viene diretto dall'allora marito di Janet, René Elizondo Jr., e le riprese si svolgono nel marzo del 1993. Tina Landon cura le coreografie, ottenendo il massimo dall'interazione tra Janet e Jennifer. That's the Way Love Goes viene candidato a 3 MTV Video Music Award nel 1993. Miglior video femminile, miglior video dance e migliore coreografia. Tuttavia, in questa prima fase della sua vita, è la carriera di attrice a regalare a Jennifer soddisfazioni e visibilità. Dopo la particina in My Little Girl e la partecipazione al programma Living Color, Jennifer viene chiamata a recitare in diversi film e serie TV fino ad ottenere, nel 1996, la sua prima parte da protagonista nel film musicale Selena, che narra le vicende della cantante di origini messicane Selena Quintanilla, scomparsa prematuramente all'età di 23 anni. Selena incontra il favore di critica e pubblico. Vale a Jennifer una nomination come migliore attrice in un film commedia o musicale e le permette di farsi notare da George Clooney, che la vuole con sé nel film Out of Sight. Altre pellicole in cui lei è apparsa sono Anaconda, The Cell, Angel Eyes, Prima o poi mi sposo, Via dall'incubo, Un amore a 5 stelle, Amore estremo, Jersey Girl. Questi due ultimi insieme a Ben Affleck, che sarebbe stato suo futuro compagno. E poi ancora Shall We Dance, insieme a Richard Gere, e Quel mostro di suocera. La Lopez però è ancora lontana dal successo come cantante, per raggiungere il quale deve attraversare ancora alcuni incroci importanti. Vi abbiamo raccontato gli inizi di Jennifer Lopez nello show business. I suoi primi passi, è proprio il caso di dirlo, avvengono come ballerina e come attrice, prima per la TV americana e poi soprattutto come backup dancer per un famoso video di Janet Jackson che di fatto la proietta nell'empireo di Hollywood. Quello che ancora Jennifer non ha scoperto del tutto sono le sue doti canore, che la porteranno a esplodere come vocalist alla fine degli anni 90. Anaconda, The Cell, Angel Eyes, Prima o poi mi sposo, Via dall'incubo, Un amore a 5 stelle, Amore estremo, Jersey Girl, sono tutti titoli di successo che vedono Jennifer spopolare sugli schermi americani e di tutto il mondo. Apprezzata e amata dai fan, proprio sul finire del decennio qualcosa spinge Jennifer a rimettersi in discussione, a tentare all'alba dei 30 anni di avviare una nuova importante porzione della sua carriera. Io non affronto la vita correndo dei rischi. Non dico in modo consapevole, questo è rischioso, per cui lo voglio fare, ma seguo di più il mio istinto. Questo, devo dire, mi porta a fare cose che normalmente la gente non farebbe. Capisci cosa intendo? Devi seguire il tuo cuore. Sono tre gli elementi che rendono possibile il debutto in grande stile di Jennifer come cantante. I primi due sono di natura, diciamo, più ordinaria e rientrano nel novero degli eventi che possono caratterizzare la carriera di una bella e talentuosa artista come Jennifer. Il terzo, invece, è un incontro con un vero e proprio magnifico destino. Vediamoli insieme, allora, tutti e tre questi elementi. Per prima cosa c'è un film, Selena. Uscito nel 1997, il film ripercorre la vita e la carriera della cantante messicana Selena, morta all'età di soli 23 anni nel 1995. Ci narra di come il padre abbia scoperto le doti canore di Selena quando aveva 10 anni. Jennifer Lopez ne interpreta il ruolo con grande efficacia, sia quando vengono ricostruiti gli indimenticabili concerti della cantante, sia quando si scende nel privato, con le liti familiari, il matrimonio con il chitarrista Chris Perez, fino alla morte, per mano di Yolanda Saldívar, la manager. Jennifer si immedesima completamente in Selena, che in effetti era stata uno dei suoi idoli adolescenziali. Cosa ancora più importante, Jennifer canta le sue canzoni, si muove sul palco come lei per le riprese del film, dopo averla studiata attentamente, mettendo in mostra un talento enorme e andando addirittura a conquistare 2 Grammy per la sua performance nel film. Secondo passaggio, piuttosto naturale. Dopo Selena, la carriera Hollywood di Jennifer procede a gonfie vele, ma il direttore generale della Sony ed ex marito di Mariah Carey, Tommy Mottola, dopo aver visto il film ed essersi entusiasmato per le capacità canore di Jennifer, fissa con lei un incontro che cambierà per sempre la vita della bella attrice. È stato un momento elettrizzante della mia vita professionale. Ero davanti a un bivio. Da un lato la mia carriera di attrice era piuttosto consolidata. Dall'altro, però, mi veniva offerta un'opportunità incredibile e rischiosa al tempo stesso. Naturalmente accettai al volo. Ora però, per capire veramente il fuoco che spinge Jennifer a cantare, prima in Selena e poi nel suo debut album, bisogna scavare in profondità e rintracciare il magnifico destino che si intreccia con quello di Jennifer. Un magnifico destino che risponde al nome di Mark Anthony. Tu me dominas, tienes el control de mi sentimiento. Aunque estés lejos de nada me sirve, porque yo te quiero. Hay más que ayer, hay más que ayer. Yo trato, trato, trato, pero no te olvido. Oh, yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo. Attore, cantante, ballerino, anch'egli di origini portoricane, Anthony è uno dei maggiori divi latinoamericani dello show business. Il suo primo incontro con Jennifer avviene nel backstage del concerto di Paul Simon. Well, I'm accustomed to a smooth ride. Oh, maybe I'm a dog who's lost his pride. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep through the night. Some people say a lie, it's a lie, it's a lie. But I say why? Why deny the obvious child? I due si incontrano, si parlano, diventano amici, rimangono in contatto. Niente di più inizialmente. La vita sentimentale di Jennifer è già abbastanza turbolenta e ricca di caos, come una vera diva di Hollywood. All'epoca del primo incontro con Anthony, è fidanzata con Juanino A, ex cameriere cubano a Miami che sposerà nel 1997 e da cui divorzierà quasi 2 anni dopo. Poi, per la cronaca, arriveranno una tormentata storia d'amore con il rapper Sean Combs, detto P. Diddy, e con l'attore Ben Affleck, e un secondo matrimonio con il ballerino Chris Judd, conosciuto sul set del suo video Love Don't Cost a Thing. In questo contesto piuttosto turbolento, Anthony rimane a lungo solo un amico. Come spesso accade però, i consigli dati dagli amici sono quelli maggiormente ascoltati. Così Anthony insiste con Jennifer affinché sfrutti uno dei suoi talenti. Mi diceva sempre, anche quando ci sentivamo al telefono, hai una bellissima voce, secondo me dovresti cantare. Prova, vedrai che avrai successo. Lo diceva con molta dolcezza, ma anche con estrema fermezza. E alla fine, l'ho ascoltato, perché quando si è trattato di fare Selina, non ho fatto altro che fidarmi delle sue parole. Da questo incontro e da questi consigli, Jennifer gira a Selina e, come vi abbiamo raccontato, mette in cantiere con la Sony il suo primo album. Nel 1999, dopo un anno di lavoro, arriva sul mercato discografico On The Six. L'album prende il nome dal treno che la porta alle sue audizioni a New York. On The Six vince il disco di platino 2 settimane dopo la sua uscita e il primo singolo, If You Had My Love, giunge al primo posto nelle classifiche. L'album macina successi uno dopo l'altro, trasformando Jennifer in una star del pop internazionale. I fan cominciano a chiamarla con il suo celebre soprannome, J-Lo. J-Lo è un soprannome che mi hanno dato i miei fan musicali. Ogni volta che facevo un concerto, un'esibizione o ero a MTV, erano visibili quei cartelloni su cui era scritto J-Lo o Jenny Lo. L'incontro con Anthony imprimerà una svolta alle rispettive vite anche sul piano personale. Dopo anni di frequentazione da amici, i due capiranno di essere innamorati e si sposeranno. Il loro matrimonio è terminato inaspettatamente solo qualche mese fa, dopo che J-Lo aveva avuto anche 2 gemelli da Anthony. Oggi Jennifer Lopez è definitivamente una delle più ricche, amate e seguite star del pop internazionale. È sicuramente la più affermata del panorama latinoamericano, con 7 album all'attivo, tour mondiali e moltissimi film di successo. A 42 anni è ancora una delle donne più belle del mondo e una delle artiste che maggiormente influenza nuovi talenti della musica internazionale. È bello poter essere un riferimento e un modello per le più giovani. Esattamente come Janet o Selena lo sono state per me. Ti dà gioia e grande responsabilità. Jennifer Lopez ha raggiunto il successo come cantante, come pop star, relativamente tardi, nel 1999, a 30 anni. Da quel momento per lei è stata una continua scalata al successo. J-Lo, peraltro, non può essere certo liquidata come un semplice fenomeno mediatico. In questi 13 anni sulla cresta dell'onda ha dimostrato anche di saperci decisamente fare, con un timbro incisivo e seducente e una buona estensione vocale che regge bene anche le esibizioni live. Naturale che un artista della sua levatura abbia influenzato una generazione intera di aspiranti star. La stessa Jennifer, per la verità, riconosce continuamente il suo debito nei confronti di un'artista ispano-americana che l'ha ispirata, la messicana Selena, da lei anche interpretata nel film del 1997 che l'ha lanciata. Ho imparato così tante cose da Selena. Cose belle come vivere la vita giorno per giorno, essere disposta a fare sacrifici, non darmi per vinta per nessun motivo e credere che l'amore vero esiste. Sono tanti i nomi che si potrebbero portare come esempi di ragazze che si sono ispirate a J-Lo. Da Shakira a Nelly Furtado a Christina Aguilera, con le debite differenze artistiche, vocali e musicali, hanno un piccolo debito nei confronti della star portoricana. We'll be right back. Negli ultimissimi anni, una giovanissima star è emersa dichiarando esplicitamente di essersi rifatta a J-Lo. Ironia della sorte, il nome con cui si fa chiamare è lo stesso della star messicana che ha ispirato Jennifer, Selena. Selena Gomez, questo è il suo nome completo, è nata in Texas da padre messicano e madre italo-americana. La madre è un'ex attrice di teatro che aveva solo 16 anni quando l'ha messa al mondo. Il nome Selena non è casuale, è stato scelto da suo padre proprio in onore di Selena Quintanilla. Selena è in qualche modo nel mio destino. E innanzitutto per il mio nome, che papà aveva scelto proprio in suo onore. E poi soprattutto perché quando avevo 5 anni ho visto il film a lei dedicato, interpretato da Jennifer Lopez. Ecco, guardandolo ho capito cosa avrei fatto da grande e ho individuato due modelli. Selena, ovviamente, ma soprattutto Jennifer, che sapeva fare tutto. Cantare, ballare, recitare e tutto straordinariamente bene. Selena Gomez, nonostante la giovanissima età, ha lasciato passare molto tempo prima di realizzare il suo album di debutto, prendendo in questo esempio da Jennifer Lopez. Ha prima raggiunto il successo grazie alla Disney nella serie I Maghi di Waverly, senza trascurare la sua partecipazione a una sterminata serie di film e altri show televisivi. Questo presenzialismo televisivo, però, ha sempre avuto una sorta di funzione preparatoria per Selena, per la quale la musica è sempre stata l'obiettivo principale fin da bambina. La giovane vocalist ha debuttato con il suo primo CD per la Hollywood Records, intitolato Kiss and Tell. Selena, a differenza dei suoi modelli, ha deciso di debuttare come leader di una band, Selena Gomez and the Scene. La stessa Gomez, in un messaggio pubblicato su Twitter, ha spiegato la ragione del particolare nome dato alla sua band. Sono stata oggetto di ironia da parte di svariate persone che mi hanno definito una wannabe scene, un'aspirante finta ragazza dello spettacolo. Bene, ho deciso di rispondere loro in modo altrettanto ironico, chiamando la mia band The Scene. Kiss and Tell è il primo di tre album tutti di grande successo. Selena Gomez, per il percorso artistico compiuto e per i consensi già ottenuti, sembra essere una delle principali candidate a raccogliere nel tempo l'eredità di Jennifer Lopez. Nel tempo, però, perché J-Lo nel maggio 2011 ha rilasciato il suo settimo album e nel 2012 ha pubblicato la sua prima raccolta di grandi successi. Un modo per dire che la regina del pop latinoamericano non ha ancora alcuna intenzione di lasciare il passo alle giovani generazioni. No! Non mi sono mai sentita forte e libera come in questo periodo. Certo, esco da un periodo difficile, sul piano lavorativo, dato che è stata una fase delicata con il nuovo album, il tour, eccetera. E poi dopo la gravidanza e il matrimonio chiuso. Certo, non è stato facile, ma sono elettrizzata all'idea che a 40 anni, sì, insomma, inizi per me una nuova vita, ricca di stimoli. Dance, yes. Shimmy y'all, shimmy yam, shimmy yay. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. Ay, mi madre, you should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business.